la storia. Natalia Aspesi, perché questo amore tra Roberto Rossellini e Ingrid Bergman ebbe così risalto all'epoca? Prima di tutto, guardi, Ingrid Bergman era la più grande attrice del cinema americano in quel momento, era veramente la regina del cinema americano. E poi perché l'America si scandalizzò terribilmente quando divenne noto che lei si era innamorata di un regista italiano e che aspettava un figlio da lui e che voleva divorziare. Fu uno scandalo terribile, che persino non solo la Chiesa Cattolica la ingiuriò, ma anche la Chiesa Luterana Svedese, quindi... Anche Hollywood, no? Fece una campagna, sì, contro di lei. Sì, naturalmente Hollywood, è ovvio. Cioè il moralismo, non solo americano, di quegli anni era terribile, per cui distrussero la figura di questa diva. In Italia, si sa, le corna sono più comuni, per cui non ci fu un vero scandalo, se non sempre da parte della Chiesa Cattolica. Ma anche perché Rossellini lasciò Anna Magnani, giusto? Beh, quello agli italiani non gliene importava niente, perché del resto lui aveva lasciato una moglie per la Magnani. La cosa, lui tra l'altro lasciò la Magnani, ma ne era già stanco prima di conoscere Ingrid Bergman. E poi è famoso quell'episodio che lui era in vacanza con Anna Magnani ad Amalfi, mi pare, e lui disse al portiere che aspettava una telefonata da Los Angeles, ma che facesse di tutto perché la signora Magnani non lo capisse. Invece lei lo capì da un ammiccamento, loro si misero a tavola, Rossellini e Anna Magnani, lei gli preparò le spaghetti come piacevano lui, con tanto sugo, poco olio, molto formaggio, e poi glieli buttò in testa. Bene. Questo, diciamo, fu la fine del rapporto. Ecco. Lei come giudica il film Stromboli, Terra di Dio, che poi non ebbe tanto successo? No, non ebbe tanto successo anche proprio a causa di Anna Magnani, perché quel tipo di film e il tipo di film che faceva Rossellini e il tipo di personaggi che piacevano a Rossellini non erano quasi mai attori o attori così celebri, ma molti così conosciuti, erano sempre così sconosciuti del luogo, e lì fu molto difficile mettere assieme la grande diva che parlava inglese con gli isolani che parlavano isolano. Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia, la cosiddetta trilogia della solitudine di Rossellini. In quale di questi tre film lei preferisce Ingrid Bergman? Ma forse nell'ultimo, Viaggio in Italia, perché forse si era abituata all'Italia, più che all'Italia, al modo di fare i film di Rossellini, che erano completamente opposti a quelli a cui era abituata. E poi forse anche perché cominciava a capire che il grande amore non poteva durare molto. In che cosa la Bergman è stata la musa ispiratrice per Rossellini in questi 7 anni? Io credo niente, cioè lui era innamorato di lei come donna, l'ammirava come attrice, ma il suo modo di fare cinema non c'entrava nulla con quello. Era indipendente. Sì, era indipendente, quindi quel viso bellissimo ma tipico di Hollywood con i nostri film non c'entrava nulla. Viaggio in Italia racconta appunto una coppia in crisi e poco dopo Rossellini e la Bergman si separano. Ancora sì. Poca differenza tra realtà e finzione? Ma lui aveva cominciato già da un po' come si usa dire, a cornificarla. E mi pare che lui fosse tornato a Roma dopo aver girato in India con una compagna che poi divenne sua moglie e madre di un figlio. Ma quindi questo grande amore che dura 7 anni è il tempo limite per l'amore di coppia? No, tempo vecchio tempo limite può essere per l'amore, passione, intendo, non per l'amore, sennò non esisterebbero più famiglie. Il tempo limite per me va da 20 anni a 1 mese. Dipende dalle ragioni per cui ci si è sposati. Molto spesso ci si sposa perché bisogna sposarsi e non si sa come si reagirà poi, più che al sesso, che ormai quasi tutti lo esercitano giustamente prima di sposarsi, ma la quotidianità. In più, oggi, allora la donna nel matrimonio, non c'era neanche il divorzio, era piuttosto abituata ad accettare tutte le decisioni e le scelte del marito. Oggi no, questa cosa non esiste più. E quanto ha contribuito lo scarso successo di questi film alla fine del loro amore tra Bergman e Rossellini? Ah, beh, io questo non glielo so dire, ma penso che abbia contribuito certamente, ma soprattutto dalla parte di lei, che aveva capito che questo uomo che l'amava e che lei riamava in realtà non potevano andare d'accordo su una cosa un po' così importante come il reciproco lavoro, perché lui faceva cinema italiano, che allora era molto naturalistico, realista, e lei faceva il cinema di Hollywood, che era completamente diverso. E poi penso che comunque erano due persone troppo diverse per continuare ad amarsi. Finita la passione, che capita quando capita, non potevano più vivere insieme. Pensavano di poter convivere, invece poi alla fine non è stato così. No, non è possibile, ma così non è possibile. No, perché lei era contenta di essere in Italia, era fuggita un po' da Hollywood e da tutto quell'ambiente. Sì, ma non sapeva com'era l'Italia di quegli anni. E quindi, vabbè, lei tra l'altro cosa ha fatto? 3 figli con Rossellini, quindi aveva una vera e propria famiglia, cosa che Rossellini non poteva accettare, non era certo uno da famiglia. Aveva un figlio dalla prima moglie, uno mi pare o due, poi ha avuto un figlio dalla tsunami, da Scutta. Natalia Aspesi, in che cosa è stato unico Roberto Rossellini? Ma lei dice come regista? Sì, o anche come uomo? Beh, intanto secondo me come regista, soprattutto lui è stato bravissimo nei primi anni di lavoro con quei film come Paesà, Roma città aperta, che ancora erano intrisi dallo spirito tragico della guerra che avevamo vissuto. E poi secondo me invece più avanti, quando ho cominciato a fare quel tipo di film storico come quello su Luigi XIV, che erano poi film quasi per insegnare alla gente la storia, quindi erano anche molto semplici, non erano lussuosi, non erano come i film storici degli altri paesi. Ma secondo me lui fa parte di quel gruppo di registi degli anni 50 che hanno reso immortale il cinema italiano. Grazie. Grazie a voi.